ci penso io poi a modificarmi la 200 gradi, quel barattino con le bande laterali, quello che c'hai tu. Ehi, va l'altro, questo c'ha tutto lì, c'è grandi sopra e sotto, c'ha le bande laterali, c'ha un'altra cosa pure, un altro tratto che qua non so dove sia, comunque un po' di roba americana si sente parlare. Figurati. No, non voglio la matica così, no. Se è meglio di pigliarmelo al limite quell'altro, poi me lo modifico io. Mi faccio arrivare la roba dell'Ainz che me lo modifico io, se ce la fanno la salvatura ce la fa l'Elettra. Dove c'è il PLL. Lo fa dinamico salvatura e poi mi dà 200 canali con quell'Inter che musico che c'hai. Pure. freddo il traio, affitto, capito. Ma questo adesso mi stai ascoltando il ventramento, ho cambiato il radio, non so se te ne sei accorto, capito. Che hai fatto, sì? C'è uno che è entrato. Capito, no, un altro, il presidente è questo, il presidente George, e ne ho di questi apparatini che sto a prova, facendo girare. E di traverità quelli antichi antichi li ho regalati, io ne avevo proprio antichi e li ho regalati, dico la verità, perché me li avevano regalati a me, Roma vecchia, proprio antica, addirittura ne avevo uno a Tre Canali addirittura, e l'ho dato in cambio, l'ho dato a Walter, poi ne avevo un altro che mi ha regalato un Cobra, di quello tipo che ha fatto il mobile in legno, un Cobra antico che me l'aveva regalato Walter, sempre Salvucci, e quello l'ho regalato lo stesso, poi cosa ce l'avevo, poi un altro, per ricordare anche il Pace, un altro antico stesso, c'erano 23 canali, no aspetta, quant'era quello lì? 23 canali, 23 canali, quello l'ho regalato lo stesso. Come quando la trovi, c'hai tutti di loro, c'hai. E poi c'è la potenza che deve designare. Che cosa? È stato un becco? No, quello ce lo scusi di 15 anni avevo preso. Quello avevo pagato 1,5 milioni tanto tempo fa, figurati, 15 anni fa. Allora c'era la lira. Ed era qua l'integro con l'apparecchio. Funziona. È vecchio, c'è un po' di acciacchi, ma già funziona. Ed è perfetto. Se ne accorgi subito, no? Se no fanno la... dice fargli fare, proviamo a fargli fare un controllo alla ripetizione delle case di vicino, se mangiano loro. Positivo, allora il discorso è questo. Lui me l'ha detto a me, io ho questo disturbo, ma adesso dice, ma non è che hai cambiato qualcosa, perché io prima questo disturbo non ce l'avevo. Ma ne abbiamo parlato, me l'ha detto, non è che me l'ha detto, ma io dice lo voglio risolvere questo problema. E allora niente, lui ha detto che faceva quello, io gli ho detto che non dipende bene, allora che cosa è? E lui ha fatto questo esposto, capito? Ha fatto l'esposto per questo disturbo, che poi io l'ho notato, perché l'ho notato adesso, grazie a nulla anche, ma è vicino da lui, però voglio dire, come si avvicina al bar, già sparisce, non si allontana dal bar, si avvicina verso la via opposta e arrivi a questo gruppo di case, in quel punto lì suona una cosa impressionante, hai capito? Ed è in direzione di casa, io l'ho sentito oggi per la prima volta, non ci avevo mai fatto caso, l'ho sentito altre volte ma non sapevo cosa fosse. Ma oggi l'ho sentito forte forte, che è una cosa, un suono proprio, una sirena forte, capito, un disturbo, e l'ho chiamato a lui a vedere, è andato, ha fatto le prove, dice sì, c'è il rumore, dice non mi funziona neanche il telecomando, e io gli ho fatto sentire nel baracchino, sono andato in vettura, sono uscito con il monitor, ho fatto il giro, e poi non mi sono trattenuto al bar, sai, perfetto. Invece di andare a controllare, basta che stacchi io il capo dall'antenna e avvicinandomi alla casa. Sì, quello sì, fino a oggi sì. Alla traiettoria che va a vedere il sinapo, è che non c'è frequenzimetro, di solito avevo attaccato un frequenzimetro con la sondina e l'avevo trovato subito dove mi segnali le forze, l'osservatore di campo. Sì, ma io l'ho già trovato stamattina, sono arrivato proprio lì al punto giusto, forse non hai capito, no? A 40 metri dal mar sono arrivato io, capito? Ed è che croce sono altre 50 metri da me, da casa mia, stessa cosa, hai capito? Oggi qualche cosa che ha passato qualcuno, non se ne è neanche accorto, magari hanno pensato qualche condizionatore dell'aria che fa più di freddo, quando lo aggancia, piglia per quel casino. Perché non è sempre che devo fare, ho fatto magari una cella telefonica, e ci stanno diciamo la cella, anche senti, quando avvicini il telefonino all'angolo del televisore, no, ho fatto così. Qui poi danno forse le macchinette, non dovevo fare il bar, il suono non c'era, ma c'era il disturbo delle macchinette, non so che cazzo, Oh, abbastanza incisa quando vado lì vicino alla chiesa, alla farmacia degli Sposi. Lo stesso rumore. No, no. Quello lì, quello, proprio quello lì, quello che fa così. Ma signor Procittà, ne senti cos'è di quei sistemi di allarme, cose dei computer, eccetera, eccetera? Che cosa vuoi? Non so che dirti. Sono una porcheria. Se viaggiate in città, non so quanto c'è di quel rumore lì. Vero, allora, non so, io... A sentirlo in questo apparato del presidente che è silenzioso, muto come coso, un suono che superava a voi, se non lo fate voi mi superava, ma suono proprio su tutti i canali poi. Lo so già, questo lo so benissimo che è silenzioso, mi sa mettiamo che entra. È positivo, che altezza siete? Questo, cosa ti volevo dire, c'ha sotto c'è scritto, c'è 1, 3, 5, 7, 9 e più 30. La scala massima. Chiamparroggia. Ciao, siamo arrivati qua al semaforo. E voi vi tiro così, dico, un po'. E mi è arrivato il banchetto col tram. Banchetto da te, arrivo col tram. Perfetto. Cucciolo, cucciolo, cucciolo. passeggiata in moto carrozzella. Sì, esatto, sì. dato che ci sono state per parte della metalli, c'era la luce, la colonna, non era niente. Se lì ci sono, per cosa che lì ci Ti spiego un po', non lo sto guardando. Anche se mi ero poco, non c'è scritto né secondo Francisco, perché mi si vede poco. Aspetta un attimo. Spiegati la lettera in gradimento, non ce l'hai. Così lo leggi subito. CKD, cos'è? CKD. Come 300 come scatto forte dovresti uscire come c'è lui, così. Quando lo chiappe con il LC, la M5 la fai come c'è tu. Cambiare un trimmer e piacere con lento. Hola, tempo lento, lui c'è l'eco veloce. Sono precise di metterci, solo che tu c'è l'eco più lento, ce n'è più bella a sentire, basta che lo metti a uno se potete parlare di sei Italia. Grazie.